Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lei non ha il diritto di parlare. Senatore Rola, le infliggo la censura. Le ho già inflitto la censura, la prossima è l'espulsione. Le ho già detto, io stabilisco chi parla. Senatore Fravezzi, parli. Senatore Sant'Angelo, la censura vale anche per lei allora. Infliggo la censura anche a lei. Se lei non si tace, io la faccio accompagnare fuori. Prego i questori di dare esecuzione all'ordine di espulsione del senatore Sant'Angelo. Se io le dico di tacere, lei deve tacere. Fuori! E insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, c'è sempre grande vivacità nella politica italiana, nel Parlamento, diciamo, su sedute mai noiose. Questa era quella particolarmente dedicata al voto di scambio, alla legge sul voto di scambio che è passata oggi, ma avete sentito quella che si chiama la bagarre al Senato. E anche se l'autority anticorruzione ha detto una buona legge, insomma una questione un po' controversa, poi vedremo se troveremo il modo di parlare, perché sono tanti i temi anche questa sera, a partire dall'Ucraina. Però poi parleremo anche, anzi andremo a rispolverare una frase che è diventata storia di un famoso avvocato, di un ancora più illustre personaggio, e avremo l'autore di questo scoop dell'intervista in cui fu detta questa frase che è diventata storica, è diventata un'espressione piuttosto utilizzata. A proposito di utilizzare, c'è sempre, vi ricordo, la pagina Facebook per i vostri commenti, le vostre osservazioni, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms li potete mandare al 349 238 6666. Dicevo, prima di affrontare come sempre i temi con gli ospiti, vi riassumo la giornata. DEF, cioè il documento economico finanziario, scoppia il caso della lettera di Padoan all'Unione Europea, lite tra Boldrini e Brunetta, e Bruxelles risponde: valuteremo il percorso di aggiustamento. Compravendita dei senatori, il PM chiede nuove indagini su Silvio Berlusconi. Dell'Utri trasferito in ospedale a Beirut, il Libano chiede la traduzione di tutti gli atti in arabo per l'estradizione. Ucraina, il paese nel caos, i militari di Kiev si arrendono ai filorussi. Canone Rai, ventilata l'ipotesi del pagamento per tutti i titolari di bolletta elettrica, ma Palazzo Chigi poi smentisce. Cultura torna al Festival dei Due Mondi di Spoleto, tra le star Depardieu e Muti. E partiamo quindi dalla lite tra il presidente della Camera Boldrini e il deputato di Forza Italia Brunetta. La conferenza dei capigruppo, convocata per decidere i tempi per la votazione del DEF, del documento di economia e finanza 2014, è stata sospesa oggi dopo che la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha abbandonato la riunione in seguito a uno scontro frontale con Renato Brunetta. Scaturito questo scontro dalle proteste del capogruppo di Forza Italia, appunto Brunetta, per la mancata trasmissione al Parlamento della lettera che ieri in audizione il ministro dell'economia Padoan ha detto di avere inviato alla Commissione europea per informarla che nel DEF il governo ha rinviato di un anno, c'è scritto che rinvia di un anno, il pareggio strutturale di bilancio. Lettera che in un primo tempo la Commissione europea questa sera ha affermato di non avere ancora ricevuto. Poi è notizia di poco fa che Bruxelles dice: va bene, allora valuteremo la sostanza di questo aggiustamento, quindi di questo rinvio di un anno. E oggi è girata un'ipotesi piuttosto particolare per contrastare l'evasione del canone RAI. È giallo sull'ipotesi di un intervento del governo contro l'evasione del canone RAI. Fonti di Palazzo Chigi smentiscono infatti le indiscrezioni che davano l'esecutivo impegnato nel recupero di questo tipo di gettito, risorse da inserire nel decreto taglia IRPEF in programma venerdì in Consiglio dei Ministri e chiamato a varare gli 80 euro in busta paga. In ballo ci sarebbero stati 300 milioni legando il pagamento del canone non più alla detenzione dell'apparecchio ma o al pagamento della bolletta elettrica o al nucleo familiare. Al di là delle smentite, sono queste ore di intenso lavoro per limare le coperture previste dalla spending review per gli interventi su cuneo fiscale ed IRAP, le cui linee guida sono contenute nel documento di economia e finanza. Il DEF ha superato intanto il via libera delle commissioni parlamentari competenti e domani è atteso al voto delle aule di Camera e Senato, un voto che per la parte riguardante il rinvio al 2016 del pareggio di bilancio strutturale sarà a maggioranza assoluta. Interessante per questo il passaggio a Palazzo Madama, dove i numeri sono sì dalla parte del governo, ma dove ogni voto non è mai scontato. Sarà trasmessa entro domani al Parlamento la lettera inviata dal ministro dell'economia Padoan alla Commissione europea proprio sul rinvio del pareggio di bilancio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo sempre sulla politica. Oggi in Senato, vi dicevo, una giornata movimentata dall'approvazione definitiva della legge sul voto di scambio. E quindi ripercorriamo un po' la cronaca e anche la natura di questo provvedimento. Prego i questori di dare esecuzione all'ordine di espulsione del senatore Santangelo. Ho detto che non accetto cori né gazzarre. Senatore Airola, si accomodi pure lei, grazie. Cori, insulti, grida, esposizione di cartelli, una vera e propria bagarre, quella che si scatena nel giorno in cui il provvedimento sul voto di scambio diventa legge dello Stato. Una protesta che si leva dai banchi del Movimento 5 Stelle viene più volte sanzionata dal presidente del Senato Grasso, che prima espelle senatori Santangelo e Airola, poi minaccia di espellere l'intero gruppo mentre sospende più volte la seduta. Al centro della contesa soprattutto la riduzione della pena per questo reato, un regalo alla mafia e ai suoi sodali, dice il grillino Michele Giarrusso. Lo sconto del 42% della pena rende questo reato molto più facile da essere commesso senza andare incontro a nessun tipo di inconveniente. Soddisfatto invece il PD per l'approvazione di una norma che sarà immediatamente applicabile per le europee. Vincono trasparenza e legalità, dicono i democratici, mentre accusano i 5 Stelle di fare campagna elettorale sulla mafia. Il capogruppo Luigi Zanda. 5 Stelle stanno facendo campagna elettorale, una campagna elettorale sbagliata, perderanno voti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Con il via libera arrivato in quarta lettura a Palazzo Madama, diventa legge la riforma dell'articolo 416 ter del codice penale. In base alla nuova formulazione, per configurare il voto di scambio ora non servirà più necessariamente un passaggio di denaro. Il reato sussisterà anche in caso di uno scambio legato ad altre utilità come favori o promesse che presuppongono accordi fra politici e organizzazioni mafiose. Le pene vanno dai 4 ai 10 anni di carcere, meno quindi rispetto alla precedente versione del testo che prevedeva condanne fra i 7 e i 12 anni. La nuova legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si potrà quindi applicare già a partire dalle prossime elezioni europee. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso di Silvio Berlusconi, mentre da Strasburgo arriva un altro no alla sospensione immediata delle pene accessorie che impediscono a Silvio Berlusconi di candidarsi alle europee. Scade questa sera, è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali, e mentre si attende il prossimo passo in cui il leader di Forza Italia comincerà a scontare la condanna in affidamento in prova ai servizi sociali, la Procura di Napoli ha chiesto al GIP una proroga di indagini, sempre a carico di Berlusconi, per finanziamento illecito ai partiti. Questa è l'ipotesi di reato. La notizia si è appresa nel corso del processo a carico di Berlusconi, imputato con Walter Lavitola, per concorso in corruzione sulla presunta, ricordate, compravendita di senatori. E ci sono due politici coinvolti in vicende giudiziarie. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è stato rinviato a giudizio per peculato, processo l'accusa di finanziamento illecito anche per l'ex ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. E agli arresti, ma è in ospedale a Beirut. Torna in primo piano Marcello Dell'Utri. Sentiamo quali sono le ultime novità. Barba lunga, tatuta di color marrone, occhio affaticato. Così ho visto Marcello Dell'Utri all'ospedale Al-Hayat. Stanco in manette, così descrive Marcello Dell'Utri Francesco Viviano, giornalista di Repubblica, che insieme al collega del Corriere della Sera Giuseppe Guastella è riuscito a vedere l'ex senatore di Forza Italia all'ospedale di Beirut, dove è stato portato per motivi di salute. I due inviati non sono riusciti però a parlare con lui, perché subito fermati e trattenuti per circa un'ora dalla polizia locale. Dell'Utri è stato ricoverato in seguito ad una visita cardiologica, quanto si apprende. Non è in condizioni preoccupanti, ma secondo i medici necessita di un monitoraggio continuo. Il suo avvocato libanese ha precisato che il ricovero è legato a ragioni umanitarie e non ha nulla a che vedere con la richiesta di estradizione che, ha precisato il legale, dall'Italia non è ancora arrivata. A complicare non poco le procedure il fatto che, a corredo della richiesta, il Ministero della Giustizia dovrà inviare in Libano tutti gli atti relativi alla lunghissima vicenda giudiziaria di Dell'Utri, tradotti in arabo, una mole enorme di carte. Il 12 maggio però scadrà il fermo provvisorio cui l'ex senatore è stato sottoposto a Beirut. Tre giorni prima, il 9 maggio, la Cassazione dovrebbe pronunciarsi in via definitiva sulla sua condanna, dopo il rinvio martedì scorso dovuto all'assenza dei due legali di Dell'Utri per motivi di salute. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso sentite questa sentenza della Cassazione: è diffamazione parlare male su Facebook anche senza fare nomi. Annullato quindi il proscioglimento di un maresciallo della Guardia di Finanza che sul proprio profilo aveva insultato un collega senza nominarlo. Perché si configuri il reato, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dall'indicazione nominativa. Questa è la sentenza. Ma adesso ci spostiamo all'estero, con l'Ucraina, dove la rivolta dei filorussi dilaga nell'est del paese. Diversi reparti corazzati inviati da Kiev per sedarla si sono schierati con i ribelli che chiedono l'annessione alla Russia. Tra l'altro, notizia è un'agenzia di questi istanti della Casa Bianca che dice che sono pronte nuove sanzioni contro Mosca, ma di questo poi parleremo in modo più approfondito qui a Effetto Notte più tardi. Torniamo sulle notizie italiane. A Confcommercio, che mostra un certo ottimismo ma con cautela. Per Confcommercio infatti le famiglie italiane tornano ad avere fiducia nel futuro, ma dice la Confcommercio, servono riforme e meno tasse. Ripresa fragile, ma cresce l'ottimismo per il futuro. Le famiglie italiane tornano a guardare con fiducia le proprie aspettative, ma servono misure da parte del governo per attivare la ripresa e trasformare questa fiducia in comportamenti di consumo. È questa l'indicazione fornita dall'indagine elaborata da Censis e Confcommercio, e per il presidente dei commercianti, Carlo Sangalli, c'è stata una scossa, ma restano i timori. Siamo di fronte ad una ripresa ancora troppo timida, fragile e incerta. Apprezzata la detassazione dei redditi più bassi, ma i commercianti chiedono di più. Noi con forza insistiamo che questi benefici fiscali vengano estesi anche alle famiglie dei lavoratori indipendenti ed autonomi. Per Sangalli serve abbassare la pressione fiscale, che con il ritorno al 44% previsto nel 2014 è incompatibile con la crescita. Occorre quindi una riduzione generalizzata delle aliquote IRPEF. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E va bene il settore del no profit. Secondo il censimento 2011 pubblicato oggi dall'Istat, è sempre più forte e con sempre più occupati. Il no profit fattura più della moda, vale 64 miliardi di euro, il 4,7% del PIL. Il dato era in parte noto, ma ora c'è il timbro dell'Istat che nel censimento 2011 del no profit diffuso oggi ha contato 300.000 associazioni, il 28% in più rispetto a 10 anni prima. Quasi il 90% si finanzia con le vostre donazioni, solo il 13,9% ha entrate di fonte prevalentemente pubblica. Anche il numero dei dipendenti è aumentato, sono 681.000. I volontari invece sono un vero e proprio esercito, 4,7 milioni di persone, come dice il presidente dell'Istat Antonio Golini. Volano importantissimo sia per la società, ovviamente trattandosi di istituzioni non profit, sia per l'economia in relazione al fatturato. Più che una bottega, una multinazionale del bene, quindi, che chiede a gran voce certezze normative. A Lucca nel weekend scorso al Festival del Volontariato se ne è parlato anche con il Premier Matteo Renzi, che è stato però piuttosto esplicito sulla sfida che chiede a questo settore. Facciamo un documento ad hoc che leghi l'impegno ad alcuni obblighi, vale a dire per esempio l'obbligo di trasparenza, di rendicontazione puntuale. Io non sono qui a promettere, io sono qui a sfidarvi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere parliamo del Festival di Spoleto, che avrà una doppia apertura il 27 luglio, lirica e prosa, con il ritorno di grandi nomi da Bob Wilson a Luca Ronconi, un nuovo testo di e con Franca Valeri, che ormai ha davvero una grande età, serate speciali con Isabelle Huppert e Gérard Depardieu, un concerto speciale diretto da Riccardo Muti. Questo è il programma presentato oggi a Roma del Festival. Ma come si può mantenere un programma di questo alto livello in tempi di tagli alla cultura? Marta Cagnola lo ha chiesto al direttore artistico Giorgio Ferrara. Intanto abbiamo un grosso privilegio, che è quello di avere le fondazioni private che investono nel nostro festival, prima tra le quali la Fondazione Carla Fendi. Poi gli sponsor tornano e quindi il nostro bilancio riesce a essere sempre, come dire, non è tantissimo, ma però Spoleto il festival in questi anni ha recuperato una sua attrattiva e quindi riusciamo a far arrivare grandi personaggi che, pur di venire a Spoleto, accettano delle condizioni che magari in altri luoghi non accettano. E con questo direi che si può chiudere questo riassunto della giornata. Poi, come al solito, prenderò alcune notizie e le affronterò tra poco con gli ospiti. Voi potete continuare a commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia attraverso i messaggi 349-238-6666, come ha fatto Beatrice, che ringrazio, e altri ascoltatori. Prima però aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, cominciamo ad approfondire alcuni argomenti con gli ospiti, però prima vi ricordo, dopo questa pausa, se magari ve le siete dimenticate o se avete acceso la radio in questo momento, quali sono state le notizie principali di questa giornata. A proposito del documento economico-finanziario, è scoppiata una lite tra la Presidente della Camera Boldrini e il deputato di Forza Italia Brunetta a proposito della lettera di Padoan scritta all'Unione Europea per rimandare e rinviare il pareggio di bilancio. Bruxelles intanto risponde: valuteremo questo percorso di aggiustamento. Nuova tegola su Berlusconi, il PM chiede nuove indagini sull'ex cavaliere per la compravendita dei senatori. Dell'Utri trasferito in ospedale a Beirut, il Libano chiede la traduzione di tutti gli atti in arabo per l'estradizione. In Ucraina continua a esserci grande tensione, il paese è ormai nel caos, i militari di Kiev si arrendono ai filorussi e la NATO e gli Stati Uniti promettono nuove sanzioni. E poi, per quanto riguarda il canone RAI, è stata ventilata oggi l'ipotesi di pagamento per tutti i titolari di bolletta elettrica, quindi di pagare il canone nella bolletta elettrica, poi Palazzo Chigi però ha smentito. Dunque, dicevamo, anche nei titoli, tutti gli occhi sono puntati per quanto riguarda l'estero sull'Ucraina e sono puntati in particolare su Ginevra, perché domani a Ginevra Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Ucraina si riuniranno per cercare di trovare un punto di incontro per placare le tensioni nell'ex Repubblica Sovietica. Oggi Putin ha detto che Kiev è a un passo dalla guerra civile, è stato in contatto telefonico con la cancelliera tedesca Merkel e ha rimarcato Putin che la brutale escalation del conflitto imputata al blitz militare di Kiev nell'est ha portato la nazione, dice Putin, sull'orlo della guerra civile. Saluto Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, commentatore del Sole. Ciao Ugo. Ciao, buonasera. E Leonardo Morlino, docente di politica internazionale comparata e scienza politica alla Luis Guido Carli di Roma. Bentornato Morlino. Grazie, buonasera. Buonasera. Buonasera. Ugo, quindi questo dice Putin, no? L'escalation di Kiev ha portato la nazione sull'orlo di una guerra civile, ma non è un po' lui l'incendiario, diciamo? Ma prima di tutto sì, certamente lui ha dato un forte contributo ad incendiare la situazione. Dalla Crimea, no? Dalla Crimea, sì, una volta che sciatori e pattinatori sono partiti da Sochi dopo le Olimpiadi, Putin è sceso in campo, come dire. Però detto questo, è molto difficile capire cosa sta esattamente accadendo sul campo adesso nell'Ucraina orientale, nel senso che forse perché ho vissuto 4 anni della mia vita a Mosca come corrispondente negli anni della fine dell'Unione Sovietica, quando c'era comunque ancora l'Unione Sovietica, a me ricorda molto la disinformazia, cioè praticamente un uso politico è interessato di quello che sta accadendo sul campo, non per niente sia russi che ucraini, essendo stati tutti insieme nel KGB, ne sanno qualcosa, quindi sia gli uni che gli altri tendono a dare una fondamentale disinformazione di quello che sta realmente accadendo, enfatizzando gli uni ed enfatizzando gli altri, ma anche perché da domani comincia questo vertice a Ginevra e quindi ognuno si sta preparando alle schermaglie poi diplomatiche, naturalmente presentarsi alzando il livello della tensione, almeno teoricamente, al tavolo della trattativa, e tutti pensano che questo aiuti la loro parte. Professore Morlino, oggi, poco fa, gli Stati Uniti di nuovo hanno ripetuto: attenzione, sono pronte nuove sanzioni, sono sempre le minacce ormai da diverso tempo nei confronti di Putin e della Russia, e la NATO, l'Alleanza Atlantica, ha deciso a sorpresa, in attesa di questa riunione domani di Ginevra, di lanciare un segnale militare forte, cioè un rafforzamento immediato delle difese ai confini orientali, via mare, terra e aria, per mettere al sicuro paesi come la Polonia, i paesi baltici, la Romania, preoccupati di questa escalation e dell'indecisione europea. Ma c'è il rischio, quindi si è detto più volte nel corso dell'ultimo mese, degli ultimi due mesi, di questo revanchismo russo, di una voglia, di una nostalgia di Unione Sovietica, se addirittura si pensa che possano essere a rischio paesi come la Polonia o la Romania? Beh, sì che rischio c'è, ma per la verità credo che, lo dice Umberto Eco, lo dicono vari studiosi, niente è più nascosto di quello che viene pubblicato o detto esplicitamente in alcuni casi, cioè Putin quello che intendeva fare l'ha detto già da settembre in un convegno, in una conferenza a Valdai, e poi ha ripetuto la sua concezione nel suo discorso del 18 marzo. Lui si è reso conto, io ero a Mosca la scorsa settimana e ho visto diversi dati di sondaggio, si è reso conto ad esempio che quello che l'annessione alla Crimea gli ha portato un'accettazione, un sostegno a livelli altissimi. Poi addirittura se si vedono i dati regionali, i dati dei risultati del sondaggio a livello regionale, è quasi senza differenza, cioè persino in Cecenia abbiamo livelli altissimi di sostegno per Putin, ovviamente più bassi che nelle altre regioni. Quindi lui innanzitutto gioca questa partita, per fare che cosa? In realtà se guardiamo con attenzione per rilanciare una strategia imperiale della Russia, dove ci possono essere anche perdite economiche, ma dove l'aspetto economico non è l'aspetto principale. E questo sta a fondo di quello che Putin sta facendo. Poi nell'immediato c'è la predisposizione, questo lo diceva bene il vostro inviato, c'è la predisposizione delle posizioni migliori per negoziare, perché poi alla fine bisogna negoziare. Anche se Morlino, lei appunto stava dicendo che tutte queste operazioni di espansionismo o di riespansionismo, come possiamo chiamarle, evidentemente quindi conquistano grande consenso tra la popolazione russa. Enorme, oltre 85-90% secondo delle diverse zone. Quindi si sente ancora più motivato Putin ad andare avanti. Ma Ugo Tramballi, secondo te domani a Ginevra, appunto diceva il professor Morlino, bisognerà negoziare, quindi concedere sempre qualcosa di più a Putin in questa sua erosione o camminata verso avanzata verso suo certo ovest? Bisognerà negoziare anche perché l'alternativa è una guerra civile reale. Io non credo che quello che stia accadendo adesso sia una guerra civile in questo momento, però può diventarlo. Il problema non è tanto, fermo restando che bisogna riconoscere comunque anche ai russi le loro ragioni, e di ragioni ne hanno, però non c'è più bisogno di concedere nulla a Putin, perché Putin sa perfettamente che la guerra fredda non è più possibile, il mondo è notevolmente cambiato e la Russia è molto diversa. La Russia non è molto diversa per esempio dall'ultimo periodo di Brezhnev, quando Brezhnev era schiava al fondo del barile di un paese che non aveva più risorse. La Russia è solamente, e non è da poco certamente, però è solamente arsenali nucleari e petrolio e gas, ma nel momento in cui il costo del petrolio del barile scendesse da 100, dagli attuali 100 e passa semplicemente a 80, la Russia non avrebbe più le risorse per fare questa, per continuare a pensarsi come una superpotenza, e sono gli unici a pensarsi come una superpotenza, nessuno al mondo li considera più tali. La popolazione russa sta diminuendo, l'aspettativa di vita è bassissima, non c'è produzione industriale, mentre il problema della Cina per esempio è quella di più che di produrre, di cominciare a consumare. Il problema della Russia è che stanno consumando ma non producono nulla, non hanno industria, ha tolto appunto gli idrocarburi, non hanno nulla, quindi è un paese che non sta investendo sul sociale, che non sta investendo su politiche sociali. Putin ha annunciato una spesa di circa, mi pare, di 750 miliardi di dollari per i prossimi 5-6 anni per un riarmo, ma non c'è alcun programma per esempio di pensioni sociali, di sviluppo del miglioramento della qualità dell'università, investimenti tecnologici fuori dal militare. Sembra di essere tornati appunto all'Unione Sovietica Brezhneviana. Quindi anche se sembrerebbe queste operazioni di Putin mosse dalla voglia di superpotenze, in realtà tu dici addirittura sono ritornati ai tempi dell'Unione Sovietica e l'aspettativa di vita dici bassissima, più o meno che media hanno in Russia? Adesso non ricordo a memoria, però è una delle più basse che ci sia appunto al di qua degli Urali. Posso anche se fare una domanda? Sì, prego, professor Morlino. Volevo appunto chiedere all'inviato, lei diceva Putin ha le sue ragioni, quali sono le ragioni di Putin? Prego. Posso rispondere? Sì, certo. Intanto, a parte la Crimea, è indubbio che comunque negli Stati Uniti ci sono stati e ci sono, per esempio a Capitol Hill, al Campidoglio, nel Senato, alla Camera, al Dipartimento della Difesa, al Pentagono, soprattutto fra i repubblicani, ci sia comunque una voglia, ci sia sempre stata dalla caduta del muro, dalla fine dell'Unione Sovietica, dagli accordi con Gorbaciov, comunque il tentativo, la volontà di vincere completamente, non di negoziare, non di aiutare la Russia come fece George Bush padre, come in qualche modo con molta più confusione fece Bill Clinton. Cioè la Russia non è stata molto aiutata ad integrarsi nel nostro sistema, soprattutto negli anni di Yeltsin, la Russia è stata piuttosto abbandonata a se stessa, naturalmente col valido e fortissimo contributo degli oligarchi russi e di un sistema russo che ancora non era nato. E questa vuol dire la reazione quindi? Anche l'allargamento Putin della NATO, ci sono alcuni paesi in cui si sarebbe potuto, non dico fare tentare di ripetere esperienze come quelle della Finlandia, perché la finlandizzazione dopo la caduta del muro come l'Austria non avrebbe avuto più senso. Detto questo, però, ci sono state alcune cooptazioni nella NATO di paesi che una volta erano nella sfera di influenza sovietica, che quantomeno avrebbero potuto essere state fatte con maggiore cautela, con più calma, non c'era questa urgenza. Ma anche da parte degli Stati Uniti c'è sempre stata una forma di arroganza. Poi Putin è totalmente incapace di leggere la realtà, temo, questo è il grande problema. È un grosso problema. Ugo, professor Morlino, abbiamo ancora un minuto. Sì, mi dica lei. Prego, prego. Volevo dire questo, Putin ha le sue ragioni. Le ragioni sono il fatto che l'esportazione del gas naturale, che è il principale export che lui ha, uno dei principali, passa quasi tutto al momento attraverso l'Ucraina. Quindi in qualche modo lui deve avere un controllo diretto e indiretto dell'Ucraina. A questo punto, dopo la firma del trattato, dell'accordo di associazione con l'Unione Europea che ha fatto l'Ucraina, l'unica soluzione che lui ha di fronte è smembrare l'Ucraina. Stiamo parlando di questo, però questa è una politica tipica, come dire, di conquista imperiale. Quindi le ragioni di Putin vere sono queste. Poi ci sono le ragioni di nazionalismo, di fare una politica nazionalista, di fare un discorso. Lui parla chiaramente, esplicitamente di impero. Sì, no, questo è chiaro. Adesso però aspettiamo per l'appunto Ginevra, anche se non ci sono grandissime aspettative su domani, però a qualche conclusione bisognerà arrivare. Quindi intanto io ringrazio Ugo Tramballi. È solo diplomatica. Certamente. Grazie professor Morlino, grazie Ugo Tramballi. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi ricorderò in pochi secondi le notizie principali di oggi, sempre Roberta Giordano con voi. Con me è venuto qualcuno che festeggia un compleanno da maggiorenne oggi, ne parleremo tra pochissimo, però c'è stata una pausa e quindi se avete acceso in questo momento, sapete quali sono stati i titoli principali di questa giornata? A proposito del DEF, del documento economico e finanziario, scoppia la lite tra il presidente della Camera Boldrini e il deputato di Forza Italia Brunetta a proposito della lettera mandata appunto da Padoan all'Unione Europea nella quale si chiede di rimandare il pareggio di bilancio. E poi voto di scambio, immigrati, è stato un giorno di scontri in Parlamento e per l'Ucraina avete sentito il paese nel caos, arrivano nuove sanzioni dagli Stati Uniti e dalla NATO, i militari di Kiev si arrendono ai filorussi. E vi dicevo che oggi ha compiuto 18 anni affariitaliani.it, che è stato il primo quotidiano online e è diventato maggiorenne. Angelo Maria Perrino, che sei il direttore fondatore. Sì, oggi appunto 18 anni fa abbiamo avuto il timbro del Tribunale di Milano che ha autorizzato il primo giornale inesistente, cioè privo di una fisicità. Il giornale è fatto di bit e non di atomi, giornale solo internettiano. Affariitaliani.it, prima testata in Europa. Prima testata in Europa, questo primato. E oggi sei al Sole 24 Ore per festeggiare questo compleanno. Sì, siamo al Sole perché siamo partner, la concessionaria web system del Sole 24 Ore da 2 mesi è la nostra concessionaria, quindi vende i nostri spazi pubblicitari. Siamo molto contenti e abbiamo voluto insieme raccontare a Milano e al mondo degli investitori pubblicitari che cosa vogliamo fare e come vogliamo muovere questo prodotto che, appunto, essendo diventato adulto, ora ha qualche responsabilità in più, ma aspetta anche qualche attenzione importante, ulteriore. Senti, per festeggiare questo compleanno, invece, diciamo, di ricevere un regalo, in qualche modo è stato anche un regalo diretto o indiretto, voi avete portato in dono un'esclusiva oggi, no? Che è stata un'intervista scoop che ha fatto storia, perché poi la frase che sentiremo in questo pezzo di intervista è diventata un po' un tormentone, no? Sì, piuttosto deprecabile, diciamo, se si può dire, però sì, era stata proprio per significare i momenti importanti di questi 18 anni. Abbiamo portato qui al Sole un po' di situazioni, abbiamo portato un mago ingegnere che ha fatto un gioco di prestigio dove ha coinvolto tutto il pubblico, per significare che un giornale fatto anche di pensiero laterale, di attenzione alle cosiddette realtà non ordinarie, come dice una rubrica di questo mago, Ferdinando Buscema. E infatti, Angelo Perrino, voi definite la vostra formula di giornalismo impegnata e croccante, nel senso che siete anche molto bravi in retroscena, no? Andare a cercare quello che c'è dietro, le notizie. Esatto, sì, anche questo è appunto il caso che abbiamo portato, è questo nostro scoop, come si dice in linguaggio giornalistico, cioè le parole dell'avvocato di Berlusconi, Ghedini, che... Però aspettiamo, facciamolo sentire, nel 2009 questo era? Guarda, la 17 data, giugno 2009. Comunque sì, esattamente, sì. Il giorno in cui da Bari è arrivata la notizia dell'inchiesta sulla Daddario. Sulla Daddario, quindi sulle escort. Col giro delle escort baresi. Ormai noto. Villa Certosa. Ecco, sì. Questa intervista fu fatta da Affari Italiani, quindi a Ghedini, all'avvocato di Berlusconi, sì. Nel momento in cui si seppe. Come procede un giornale online? Appena arriva l'agenzia, ti attacchi al telefono, cerchi di avere la prima dichiarazione. Noi parlavamo con Ghedini e sentiamo qual è stata la sua dichiarazione. Fonti della procura di Bari confermerebbero un'inchiesta, voi di questo non sapete nulla? Noi non sappiamo nulla, ma certamente non può essere un'inchiesta nei confronti del Presidente, perché qualsiasi ricostruzione si possa ipotizzare, ancorché fossero vere le indicazioni di questa ragazza, e vere non sono, ma è ovvio che lui sarebbe, secondo la ricostruzione, l'utilizzatore finale e quindi non mai penalmente punibile. Il famoso utilizzatore finale, quindi era Berlusconi in questo caso, Angelo Perrino. Abbiamo portata non per una valenza politica, Affari Italiani non è né di destra né di sinistra, ma io penso che noi siamo avanti, cerchiamo di essere avanti. E l'abbiamo portata come esempio di giornalismo, il nostro, croccante, tempestivo sulla notizia, originale, nostro. E devo dire che appunto questo lancio d'agenzia, perché poi l'intervista fece il giro d'Italia e del mondo, ha fatto sì che questa espressione diventasse un argomento di ironia, perché insomma in pratica Ghedini è stato originale, ammetteva con questo suo ipertecnicismo, con un'espressione che in tribunale probabilmente non scandalizzerebbe, ammetteva che Berlusconi comunque è stato aveva l'utilizzatore finale, che ha detto in confronti di donne, insomma, diciamo, esatto. poco elegante. Ma comunque adesso, a proposito di giornalismo, di scoop, di formule, insomma, di giornalismo, sentiamo, c'è in collegamento Giuseppe Guastella, che è giornalista e cronista giudiziario del Corriere della Sera. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Tu sei in Libano in questo momento, no? Sono a Beirut. Sì. A Beirut, perché è girata la notizia che tu, insieme a un tuo collega di Repubblica, hai raggiunto Marcello Dell'Utri, che è, appunto, era prima detenuto a Beirut, dove pare si fosse rifugiato. Qualcuno dice invece lui si giustifica dicendo che è lì per essere curato, e tu lo hai incontrato. È in ospedale in realtà adesso. Pronto? Evidentemente il collegamento con Libano è un po' difficile, adesso vediamo di recuperarlo. Senti, Angelo Perrino, che cosa ne pensi di questa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che poi alla fine ha scelto per l'affidamento ai servizi sociali di Berlusconi, il fatto che andrà a far compagnia, diciamo, poi bisognerà vedere che mansione avrà questi anziani a Cesano Buscone vicino Milano per 4 ore alla settimana? Mi sembra l'ennesimo pastrocchio della magistratura italiana quando si deve occupare di Silvio Berlusconi. Cioè, tanto è stata dura e testarda nel perseguirlo, quanto adesso è un po' buffa di dargli questa pena che sembra proprio ridicola. Non, 2 giorni deve stare, alcune ore, però può fare attività politica, può... Infatti ha l'agibilità politica, no? In cui tanto sperava, e quindi dice può fare... Mi sembra una burletta, si conferma che siamo un paese un po' così. Sentiamo se abbiamo recuperato Giuseppe Guastella del Corriere. Giuseppe! È pronto, ecco. Spero che la linea sia... mi raccomando. Perché non so se mi sentite sì, bene. Sì, sì, ti sentiamo bene, stai immobile, respira il meno possibile, Giuseppe. Non mi muovo, sì. Quindi oggi hai incontrato Marcello Dell'Utri, che sta aspettando questa sentenza della Cassazione, che è stata rinviata, la Cassazione ha accettato di rinviare, perché i suoi legali sono malati, di rinviare l'udienza al 9 maggio, dove dovrà decidere per questi 7 anni a cui è stato condannato di reclusione per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Lui nel frattempo Dell'Utri, come sapete, è stato sottoposto ad un arresto provvisorio all'estero dovuta ad una richiesta di estradizione da un mandato di arresto via Interpol perché secondo la magistratura di Palermo c'era il pericolo di fuga proprio in vista di quella sentenza. Come dire, Marcello Dell'Utri, secondo i magistrati parlamentari, temeva di essere condannato e quindi preventivamente si era allontanato dall'Italia. È arrivato in Libano, dove è stato arrestato sabato mattina scorsa in un famoso hotel, l'hotel Fenice qui di Beirut. Noi, il Corriere della Sera, in questi giorni ha seguito questa storia in tutti i passaggi. Nelle edizioni che avete potuto vedere oggi avevamo annunciato che oggi ci sarebbe stata questa perizia medica, che probabilmente ci sarebbe stato un trasferimento in un ospedale, cosa che peraltro è avvenuta. Bisogna ricordare che Dell'Utri ha 72 anni, è reduce da una recente operazione di angioplastica, quindi un intervento al cuore. E tu quindi come l'hai trovato, Giuseppe? Noi siamo entrati, poi raccontiamo quello che è successo, siamo entrati io e il collega di Repubblica, siamo gli unici in questo momento che seguiamo questo caso qui, ci siamo trovati insieme di fronte all'ospedale uno degli ospedali di Beirut, siamo entrati dentro, abbiamo aperto la porta proprio dell'ingresso dell'ospedale, quella dove dà proprio sulla reception, chiamiamola così, dell'ospedale. In quel momento ci siamo visti venire incontro Dell'Utri, che era circondato da 4 poliziotti armati fino ai denti. L'abbiamo visto non, per me non bene, l'ho visto come una persona fortemente provata, che non sta sicuramente benissimo e che camminava anche con una certa difficoltà. Senti, tu sei stato... vorrei esagerare troppo, però non era certo una persona che tu dici insomma sta benissimo. Giuseppe, poi tu sei stato fermato, adesso sei libero a quanto pare, no? Il collega di Repubblica che io siamo stati fermati dalla polizia, perché il collega di Repubblica ha fatto una fotografia al detenuto e siamo stati presi, ammanettati, portati in 2 stanze diverse e ci hanno perquisito. Quando si sono resi conto che eravamo dei giornalisti e non chissà cos'altro, li hanno rilasciati, insomma, per hanno fortuna. Rilasciato dopo una mezz'ora, insomma, non è stata una bellissima esperienza. Certo, però l'importante è che sia finita bene. Grazie Giuseppe Guastella, allora, grazie di questa cronaca da Beirut. Ciao. Angelo Perrino, quindi da Berlusconi a Marcello Dell'Utri, ma invece del rapporto e dell'accordo tra Renzi e Berlusconi, quindi tra la maggioranza, il governo Renzi e Forza Italia, che ne pensi? Ma penso che è stato abile Renzi a capire che se non faceva questo accordo non riusciva a sbloccare la situazione. Quindi ci siamo interrogati su Affari Italiani e se vuoi, ne abbiamo fatto anche uno dei nostri slogan. Chi ha giocato chi? Nel rapporto tra Renzi e Berlusconi, chi ha giocato chi? Secondo me ha vinto Renzi, nel senso che ha capito che Berlusconi era in difficoltà e concedendogli una apparente agibilità politica, in realtà lo ha vincolato a un patto che alla fine servirà solo a Renzi, perché temo che Berlusconi oramai da questa vicenda non possa più uscire. Come dice D'Alema, tu sei d'accordo con D'Alema che dice Berlusconi ormai è un leader che incide molto meno rispetto al passato, lo vedo indebolito con molte meno forza. Io penso che sia finita un'epoca e il ventennio berlusconiano con questa vicenda, noi con questo Ghidini che dice queste robe, per noi segnano la fine di un'epoca. E questa telefonata che abbiamo messo in rete su Affari Italiani, diciamo che è la metafora di questo ventennio un po' scellerato, un po' fuori dagli schemi. Quindi un ventennio che sta finendo. E per chiudere, Angelo Perrino, queste le nomine del governo Renzi, no, le varie società pubbliche, ti convincono? Sono davvero segno di rinnovamento? No, questa volta devo proprio dire di no, ci sono tante cose che non mi convincono. Si è detto le donne, ma in realtà queste donne sono tutte presidenti e quindi cioè non con un ruolo operativo, contano. Sono quelle a cui viene tagliato per la prima volta lo stipendio, no? che deve essere a 238 mila euro e poi quelle che tagliano i nastri non hanno alcuna funzione aziendale. Si poteva fare di più, almeno una simbolicamente amministratrice delegata, il potere, no? di CEO, sì. Poi mi è sembrato come dire ingeneroso mandare a casa manager come Conti e Scaroni, che sono dei numeri uno, che hanno fatto molto bene, su campagne di stampa che sono tipicamente italiane. Loro erano due manager, Scaroni, e credo sia un manager di livello internazionale. Anche se insomma c'erano state un po' di questioni controverse che riguardavano Scaroni, no? Ma no, si sono attaccati, si parlava di questa inchiesta per la SNAM, ma lui è parte lesa, ha licenziato e denunciato, cioè analizzando bene non era così. Si dice ha fatto tre mandati, quindi basta, ma qualcuno ha obiettato su Affari Italiani che a Mattei tu avresti mai detto i mandati, scadenza di mandati. E Mattei comunque era Mattei. Angelo Perrino, è Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani .it, e poi lì potete ritrovare in esclusiva. Sì, questa telefonata potete giocarvela in streaming con tutti i vostri amici, sì. Grazie Angelo. A voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Lo spazio europeo adesso, facciamo un bilancio dell'Europarlamento. Domani si chiude ufficialmente a Strasburgo la legislatura del Parlamento europeo, entra dunque nel vivo la campagna elettorale per le europee del 25 maggio. Il nostro inviato a Strasburgo, Sergio Nava, ha tirato le somme di questi ultimi 5 anni di legislatura segnati dalla crisi insieme ai rappresentanti italiani dei principali schieramenti politici. Europa 24 notte. Ultimi giorni di scuola. Si chiude questa settimana la 7ª legislatura del Parlamento europeo. A Strasburgo tempo per i saluti, i commiati e gli arrivederci. Da lunedì inizia la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 25 maggio. L'emiciclo di Strasburgo appare affollato in questi giorni come raramente accade, tra deputati in cerca di visibilità elettorale, giornalisti e sterminati gruppi di visitatori invitati dai gruppi politici. Radio 24 ne ha approfittato per chiedere ai rappresentanti italiani dei principali gruppi politici di tirare le somme di questa legislatura che si chiude. Cominciamo con David Sassoli, capogruppo PD Socialisti e Democratici. Cosa ha fatto il Parlamento europeo nell'ultimo quinquennio per i cittadini del continente? Ha difeso i prodotti italiani di qualità, ha respinto l'assalto dei paesi del nord che non producono agroalimentare ma lo trasformano, abbiamo dato tracciabilità ai nostri prodotti, abbiamo in prima lettura abolito il roaming, abbiamo detto sì alla tassa per le transazioni finanziarie e abbiamo detto no al fiscal compact. Ecco, tre cose molto concrete. Salvatore Iacolino, vice capodelegazione Forza Italia, Partito Popolare Europeo. Un passaggio cruciale è stato quello di una maggiore attenzione nei confronti della migrazione irregolare. È stata approvata anche recentemente una risoluzione dovrebbe garantire maggiore solidarietà tra gli Stati membri, maggiore condivisione degli oneri migratori. L'altro tema di sicuro interesse è quello dell'unione bancaria. Terza cosa importante è il contrasto alle mafie, la corruzione e il riciclaggio. Sono stato relatore nella commissione speciale, finalmente una dimensione transnazionale delle mafie. Niccolò Rinaldi, Scelta Europea, Liberal Democratici. C'è un'Europa delle opportunità che in questa legislatura in gran parte l'Italia ha mancato. Penso ad esempio ai 28 miliardi di euro che sono stati stanziati nel periodo 2007-2013 dall'Europa per i nostri territori e ne abbiamo utilizzati soltanto la metà. Questa è stata una legislatura dominata da un conflitto molto forte tra un metodo intergovernativo che alla fine per il momento ha prevalso e il metodo invece comunitario con elementi di federalismo, che è quello che io ho sempre cercato di portare dentro il mio lavoro. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Sicuramente questa è stata la legislatura della crisi e la crisi si è sentita molto e l'Europa non è stata in grado di reagire per tempo e con misure adeguate. Alla fine quello che rimane di questa legislatura è un giudizio in chiaro scuro per parte mia, in cui probabilmente soprattutto sulla questione della risposta alla crisi le ombre prevalgono sulle luci. C'è stata una risposta tardiva da parte dell'Europa. Se noi avessimo affrontato per tempo la crisi del debito greco probabilmente non saremmo arrivati a dover imporre misure di austerità a una buona fetta d'Europa, compresa l'Italia, che sta ancora pagando queste scelte assolutamente folli. Infine Lorenzo Fontana, Lega Nord, Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Ci sono battaglie ancora in corso che sono molto importanti dal mio punto di vista. La prima è sul Made In, perché sappiamo che la certificazione dei prodotti, soprattutto per i prodotti italiani di qualità, è fondamentale. Questa è una battaglia che verrà sicuramente portata anche nella prossima legislatura. Dal mio punto di vista un'altra battaglia importante che siamo riusciti a fare è stata quella per bloccare l'ingresso della Turchia in Europa, e dopo è stato fatto l'ultimo fondo asilo e immigrazione, nel quale, fra tante cose che non ci sono piaciute, però ce ne sono state altre molto importanti, come un rafforzamento della cooperazione, soprattutto per far rientrare gli immigrati clandestini. Le Jason Fay. Ora è tempo di campagna elettorale, per elezioni che saranno realmente differenti. La posta in gioco è il futuro dell'Europa. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ed eccoci invece col vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Salvatore, ci siamo spostati molto col tempo, purtroppo è poco, ma ti volevo chiedere, rassicura, perché l'Istat dice che in realtà questi 80 euro che dovrebbero arrivare per chi guadagna meno fino a 1500 euro, l'Istat dice, ragionando in termini di reddito familiare equivalente, un aumento lineare delle detrazioni rischia di avere scarso effetto per la riduzione della disuguaglianza, mentre Renzi ha twittato che questi sono i gufi, quelli che parlano di coperture che non ci sono. Vedrete venerdì quando passerà il provvedimento. Sì, vedremo il provvedimento definitivo venerdì, però devo dire che noi stasera e sul giornale di domani anticipiamo insomma alcuni contenuti del decreto, quindi anticipiamo anche un pochino come sarà con questa curva degli sconti ulteriori che avranno, diciamo, i redditi fino a 28.000 euro. Effettivamente devo dire che mi sembra che, guardando i numeri questa sera, mi sembra che abbia ragione l'Istat, nel senso che la detrazione, come peraltro un po' si era detto, non è di 80 euro per tutti, ma diciamo crescere del reddito, arriva al suo picco massimo intorno ai 25-26 mila euro, e poi a 28 mila euro si azzera completamente. E ci toccherà parlarne anche nei prossimi giorni. Grazie, scusa Salvatore Padula, buon Sole 24 Ore, noi ci sentiamo tra poco.